sembra un po' una replica di febbraio, tutti si affrettano, non solamente l'Italia naturalmente, a chiudere i voli dalla Gran Bretagna come si fece per la Cina in primavera, mentre la nuova variante del virus probabilmente è già qua, anzi lo è certamente, come confermato ieri. Una variante a diffusione più rapida, ma che non dovrebbe mettere a rischio i vaccini, dicono gli esperti. Con queste notizie un po' cupe, ieri ci sono stati gli ultimi spostamenti tra regioni gialle prima della chiusura, mentre la comprensione delle nuove norme continua a non essere immediata. Ci arriveremo tra poco. Non è immediata la soluzione anche della mezza crisi di governo che si è aperta nei giorni scorsi. Conte dovrebbe procedere tra oggi e domani con questa sorta di verifica. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Quattro mattino di Simone Spezia. Eccoci qua, care ascoltatrici, cari ascoltatori, li avete sentiti i campanellini della sigla? Vi aspettavate Babbo Natale? E invece ecco il Grinch. Ci siamo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS, messaggi su WhatsApp con il nostro Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza. In redazione Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. Allora, il punto mi pare questa, il punto di giornata è questa variante inglese del virus. Torneremo a parlarne più avanti, sarà ospite la professoressa Antonella Viola alle 8.35 con la quale cercheremo di farci chiarire un po' di cose, anche se veramente possiamo stare tranquilli con i vaccini, quelli che sono stati studiati fino adesso. Gli esperti ci dicono di sì al momento. Iniziamo da qua, Peter. Dai, sentiamo questa voce di Boris Johnson. Yesterday afternoon I was briefed on the latest data that shows the virus. Eccolo qua, il primo ministro britannico che racconta un po' di questa nuova variante del virus, che in realtà non è nuova per nulla, è attiva a quanto pare da settembre. Quali sono le caratteristiche? Walter Ricciardi, consulente del governo. Dai dati che ci danno gli inglesi ci dice questo, cioè ha una capacità di contagiare migliore perché ha delle mutazioni che consentono, diciamo per semplificare, di penetrare meglio nella mucosa, soprattutto nasale. Il ministro Speranza conferma il blocco dei voli dalla Gran Bretagna, sentiamo. E riteniamo che in via chiaramente precauzionale, anche per consentire ai nostri scienziati di poter approfondire, capire, valutare esattamente la portata del problema nuovo che abbiamo di fronte, di fermare i voli in provenienza da tutto il Regno Unito. Cosa sappiamo? Credo che misure simili alle nostre verranno assunte anche da altri paesi nelle prossime ore. Era ovviamente ospite di Lucia Annunziata, in mezz'ora o mezz'ora in più. No, lo dico all'ascoltatore che già scrive: no, stamattina di calcio non parliamo. Ne parliamo, no, scherzo. Cari amici atalantini, i miei più vivi complimenti per la vittoria straordinaria di ieri contro la Roma. Cari amici atalantini, la gestione della pandemia. Ecco, mi ha messo il nervoso. Walter Ricciardi ieri ha detto anche un'altra cosa, ospite all'aria che tira. Ha detto: abbiamo fatto bene all'inizio e poi abbiamo fatto un mezzo disastro. Tutti gli altri paesi del mondo hanno ritardato, hanno fatto troppo poco. L'esempio eclatante è quello degli Stati Uniti o quello della Gran Bretagna o quello del Brasile. Noi abbiamo fatto molto bene nella prima fase, diciamo. Io queste cose ovviamente le ho dette in continuazione al ministro Speranza, che non ha mai cambiato idea sul rigore e sulla tempestività delle misure. Però poi succede che nella prima fase siamo stati agevolati, per intenderci, dalle immagini terribili che vedevamo negli ospedali. Questa seconda fase la gente un po' ha rimosso i morti, ha rimosso, diciamo... Ma è strano, perché sono tanti però. Noi abbiamo l'indice di mortalità e l'indice di letalità, ma soprattutto il primo, più alto del mondo. E poi c'è tutta la questione del piano pandemico. Breve riassunto della vicenda. Una serie di inchieste giornalistiche hanno messo in evidenza che il piano pandemico italiano non era aggiornato dal 2006. Nel 2016 gli era stata data una riverniciata, nel senso che era stato riproposto sostanzialmente lo stesso piano pandemico, piazzandogli sopra un foglio, o meglio, negli ultimi mesi era successo questo. Era stato riverniciato mettendogli il frontespizio con scritto 2016 invece di 2006, lasciando sostanzialmente appunto lo stesso piano pandemico di prima. Su questo sta indagando anche la Procura di Bergamo, su questo si parla di una... di pressioni da parte dell'OMS anche per minimizzare le carenze dell'Italia nella gestione della pandemia. Se ne sta occupando molto Massimo Giletti a Non è l'Arena. Ieri ha avuto ospite Ranieri Guerra dell'OMS. Sentiamo. Noi dobbiamo dire con estrema chiarezza che il piano antipandemico influenzale doveva essere aggiornato nel 2018. Perché nel 2018 sono cambiate le stime di rischio e tutte le procedure. Nel 2018 questo piano andava radicalmente mutato, aggiornato. Di chi è colpa? Rivisto. Perché non è stato fatto? Se ne è fatta un'idea. Lei è direttore generale dell'OMS. Direttore generale per più di 3 anni. Guardi, quasi all'interno del ministero. Io mi sono limitato a lasciare un'allerta. Così Ricciardi, Ranieri Guerra, che devo dire un pochino in questa vicenda pare lavarsene le mani, no? Il vice ministro Sileri da mesi, e l'abbiamo sentito anche a questi microfoni, sta conducendo una battaglia contro i vertici amministrativi del Ministero della Salute e dice: non mi forniscono i dati, non mi danno le informazioni che servono. Sentiamo Sileri, che sempre da Giletti ieri va in bestia proprio. Ma venissero qui tutti e tre i direttori generali e tutti quelli degli uffici e ci mettiamo seduti con tutte le carte in mano. Una cosa del genere è inaccettabile. Per gli italiani è inaccettabile. Allora, io sono 6 mesi che ho chiesto delle cose. Nessuno deve permettersi, non per il vice ministro Sileri che non conta un cazzo, ma per gli italiani. Per gli italiani una cosa del genere è inaccettabile. Il Ministero della Salute deve essere una casa trasparente nella quale tu entri, guardi quello che c'è ed esci, perché è pagato con le nostre tasse. Il piano pandemico è vecchio, sono 10 anni che non viene rinnovato. Se questo signore pensa di averlo letto, bene, allora mi deve spiegare perché le colonne sono vuote, mi deve dire dov'è questo comitato per la pandemia. Io non l'ho mai visto, non so nemmeno chi ci sta. Capito Sileri? Il vice ministro della salute che non sa nemmeno se c'è un comitato per la pandemia, se esiste oppure no, ma guardate che questa storia è veramente pazzesca. Ne parlammo già, se vi ricordate, qualche mese fa. E ospitammo Sileri, il quale Sileri ci disse esattamente così, ci disse: dal ministero non mi danno le informazioni, cioè un vice ministro della salute che non riesce a avere le informazioni delle quali ha bisogno, i dati precisi sulla pandemia, tanto per fare un esempio, dallo stesso ministero nel quale lavora. Se questa cosa è vera, dovrebbe portare, scusate, a dimissioni a raffica una cosa di questo genere. Dovrebbe portare al fatto che appunto le persone coinvolte in questa vicenda rassegnino le loro dimissioni. Se dovessi definire la notizia che mi ha colpito di più nel fine settimana e che ho trovato pazzesca, in un periodo nel quale ci avviamo a quella che dovrebbe essere la più importante, la più densa, la più rilevante campagna vaccinale della storia in tutto il mondo, è questo. Nella giornata di venerdì c'è stato un pronunciamento di un organo di giustizia, ossia la Corte di Cassazione, che inopinatamente e contro il parere, ed era già successo in primo e secondo grado, e contro il parere di tutti gli scienziati del mondo, ha messo in correlazione i vaccini e la leucemia. Lo ha fatto in una sentenza che aveva a che fare con un militare che aveva contratto la leucemia. I familiari avevano denunciato, appoggiati dalla perizia di una persona che è stata radiata dall'ordine dei medici in quanto dichiaratamente Novax, che i vaccini troppo ravvicinati prima di una missione all'estero avevano portato alla leucemia. Ora, di fatto tutto quello che esce dalle perizie fatte da scienziati seri dice che questo non è possibile. E però questo è avvenuto nella giornata di venerdì. Tutto questo alla vigilia di una campagna vaccinale fondamentale, nella quale la grande battaglia sarà esattamente contro i Novax. E allora sentiamo a che tempo che fa Mantovani dell'Humanitas, che è intervenuto a ieri, che ci chiarisce una volta per tutte che tra queste due cose non c'è correlazione. Sentiamo. No, non c'è nessuna relazione fra nessun vaccino e tumore. Anzi, ricordiamo, ci sono due vaccini che utilizziamo e che ci proteggono dal cancro. Il vaccino contro il virus dell'epatite B è uno dei motivi per cui il cancro del fegato è diminuito e sta diminuendo nel nostro paese. Il vaccino contro il virus del papilloma, 200.000 certo. Donne morte all'anno, 1.000 nel nostro paese. E ancora diciamo che il vaccino di cui stiamo parlando, BioNTech, deriva dalla ricerca sul cancro. È un regalo della ricerca sul cancro. Ed ecco qua. Oh, passando ad altro, ieri, sempre, visto che siamo su questa trasmissione, sempre a che tempo che fa, Luigi Di Maio, il tema di Haftar, quello che qualcuno ha definito il bacio della pantofola, ossia il fatto che il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri vadano da quello che è sostanzialmente un miliziano che controlla una piccola parte della Libia e ha 20.000 soldati, per ottenere la liberazione di 18 pescatori, da qualcuno è stato interpretato come un gesto eccessivo e che mette a rischio i nostri obiettivi di politica estera. Così Di Maio su questo tema. E ora io voglio ricordare una cosa: noi Haftar nel 2020, dalla fine del 2019 fino ad oggi e tutto il 2020, lo abbiamo incontrato 9 volte, è venuto anche a Palazzo Chigi, quindi non era una persona con cui non parlavamo. Noi abbiamo smesso di parlare quando ha messo in stato di fermo i nostri pescatori. Quindi c'è stata una lunga discussione con lui finché non si è arrivati al punto che chiedeva semplicemente di riallacciare i rapporti che avevamo anche prima. E questo ha portato alla liberazione dei pescatori, senza cedere quindi nulla in cambio. Non era accettabile assolutamente. Oh, e qua Silvio Berlusconi si sente malino, ragazzi, si sente malino, però ascoltiamo questo passaggio, perché telefona ai pescatori e gli dite: guardate che a liberarvi non è stato il governo italiano, sentiamo. Non si può dire, ma che è stato poi il signor Putin con le sue telefonate da star a farli liberare, questa è la verità. La verità, dice ai pescatori, è stato il presidente Putin a farvi liberare, non è stato il governo italiano, dice Silvio Berlusconi ai pescatori. Poi Di Maio nega, dice non è stato il governo di un altro paese, siamo stati noi. Il tutto si mescola con la famosa vicenda politica, questa mezza crisi di governo che arriva, non riusciamo a capirlo, a dir la verità, perché i toni si alzano. E però l'idea che poi si vada a finire con un rimpasto è abbastanza forte, e non un nuovo governo, non il voto, ma un rimpasto, si rimettono un po' insieme le cose, si fa un Conte Ter forse, chissà. Il più duro ieri è stato Ettore Rosato di Italia Viva, sentiamo. La necessità di costruire un rapporto di maggioranza e tra la maggioranza e il Premier che sia un rapporto fiduciario. Fiducia che oggi non c'è più. perché il Premier ha sciupato questa fiducia che aveva, almeno con un pezzo della maggioranza, la nostra. Tutto questo o lo risolve il Premier in una maniera molto chiara e dicendo quale vuole essere il suo percorso per andare avanti nei prossimi anni, oppure è evidente che questo governo per noi è un'esperienza finita. Capito? Così dunque Ettore Rosato. Andiamo al traffico, poi un accenno dalla vicenda di Virginia Raggi, che è un'altra questione politica aperta, e poi questo Matteo Salvini e quel suo filo di incoerenza tra un attimo. Mattino. Allora, rapidamente, Virginia Raggi che dice: ho vissuto, dopo l'assoluzione, ho vissuto anni di solitudine politica. Ce l'ha con un pezzo del Movimento 5 Stelle, ovvio, no? Credo che oggi questa sia una vittoria mia, del mio staff. Quattro lunghi anni, permettetemi di dirlo, di solitudine politica, ma non umana. Oggi molte persone dovranno riflettere, anche e soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle. Troppo facile salire oggi sul carro del vincitore, magari con parole vuote. E occhio, perché dal punto di vista politico questa vicenda rimette le castagne sul fuoco che al Movimento 5 Stelle, castagne sul fuoco che si sperava che fossero tolte dai magistrati. E per quale motivo? Perché un'eventuale condanna di Virginia Raggi avrebbe consentito al Movimento 5 Stelle di dire: cambiamo cavallo, non ricandidiamo Virginia Raggi alla guida di Roma, ci accordiamo col Partito Democratico e troviamo un nome comune. Mentre invece il fatto che Virginia Raggi non solo abbia già detto nei giorni scorsi e nei mesi scorsi che si vuole ricandidare, ma il fatto che adesso sia stata assolta fa sì che il Movimento 5 Stelle possa avere molte poche scuse. Il Partito Democratico continua a dire che Virginia Raggi non la sosterrà e quindi andranno separati. Cosa farà poi Carlo Calenda? Andrà il Partito Democratico a sostenere Carlo Calenda? Boh, chissà. Lo vedremo, però partita sulle amministrative è ampiamente aperta. E poi chiudiamo il capitolo politico con Matteo Salvini. No, mi autodenuncio. A Natale Santo Stefano vado ad aiutare i clochard. Mi autodenuncio se la scelta del governo sarà che la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano non si può uscire di casa, neanche per portare una coperta a chi dorme in strada e ha freddo, per portare un piatto di pasta caldo a chi dorme in strada e che ha freddo, per portare una fetta di panettone e un sorriso, anche se a distanza, a chi dorme in strada e ha freddo, io lo farò lo stesso. Però qual è il punto? È che gran parte delle persone che dormono per strada al freddo sono immigrati e in gran parte irregolari, e dunque qualcuno su Twitter è andato a ripescare questo video di Salvini di qualche tempo fa, nel quale gira in una galleria nella quale ci sono appunto dei clochard che dormono, e i toni sono un pochino diversi. Partiamo bene, ecco le risorse, avete visto ragazzi? Va bene, qua ci sono altre risorse. Questo è uno, questa è una persona, pensavo fosse un sacchetto. Ma questa è una persona, questo è un piatto di pasta rimasto qua, che qualcuno evidentemente darà da mangiare pure a loro, chissà se darà da mangiare pure a loro Matteo Salvini. Ci sono nuove norme sugli spostamenti e, come da tradizione ormai di questa trasmissione, è con noi Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona, provincia di Varese, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Castellone, bentornato. Ci sentiamo un po' troppo spesso. Però, nel senso che a me fa piacere, però le regole cambiano continuamente. Allora... Dunque, noi da oggi non possiamo spostarci di regione, no? Questo mi sembra abbastanza chiaro. Fino al... Ci sono stati... il periodo considerato è quello dell'ultimo decreto legge, che va dal 21 fino al 21 dicembre, fino al 6 di gennaio. Non ci sono più le zone rosse o arancioni, ma si parla di periodi in cui si tratterà di zone di colore rosso, arancione o giallo. Quello che è da dire è appunto che in realtà non è cambiato nulla dal punto di vista del decreto del DPCM del 3 di dicembre, che ha introdotto e ha ridefinito appunto le modalità di utilizzo all'interno delle varie zone. Si tratta semplicemente di andare a il governo ha individuato dei giorni e dando delle deroghe all'interno di questi giorni rispetto al decreto di CM del 3 di Ok, allora quindi su questo ci siamo. Lo dico agli ascoltatori, abbiamo pochi minuti, però se avete delle domande su quello che potete o non potete fare, c'è questa novità, Castellone, dello spostamento in due con ed esclusi da questo spostamento in due sono i 14enni, 14 anni compiuti da quel che ho capito. Come funziona esattamente? Funziona che sempre nel decreto del 3 di dicembre ci dicono, e lo dicevamo anche prima, che riguardo alle abitazioni private... Aspetti Castellone, che abbiamo un problema audio orrendo. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a recuperare l'audio. C'è qualche ascoltatore che subito va in polemica su questa storia di Salvini dicendo però non avete criticato Di Maio che va 9 volte dal criminale Haftar, dal miliziano Haftar. Guardi, ce ne siamo occupati ampiamente nella giornata di quando è stato venerdì la liberazione, giovedì la liberazione dei pescatori, ci siamo occupati ampiamente nella giornata di venerdì e devo dire che le critiche sono state piuttosto pesanti, tanto che ci avete dato degli antigovernativi. Quindi ragazzi, un po' di calma, prendete una via e prendete una decisione. Vediamo se abbiamo recuperato Castellone. Eccolo qua, la regola dei due. La regola dei due, perché come ha precisato Conte, diventa difficile andare a controllare in casa quante persone ci sono in questo periodo natalizio, ricordando che il decreto precedente dice che è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi. Questo è rimasto, quindi non è che è cambiato. Dove è andata a verificare la cosa? Sugli spostamenti, e quindi limitiamo gli spostamenti, riusciamo a controllare gli spostamenti, perché più di due in auto non si può andare, bisogna chiedere perché state andando e dove state andando, la citazione. Il discorso dei 14 anni è legato, sentivo anch'io ieri il consulente Ricciardi, è legato sostanzialmente anche a livello scientifico, dicono che i più giovani sono meno contagiosi, insomma, su questo. Ma mi scusi Castellone, mi scusi, è giusto per capire. Allora, io ho una famiglia, mia moglie, io e tre figli, e hanno, esempio pratico, 16, 14 e 8 anni. Il 16enne lo devo lasciare a casa se vado da una coppia di amici. Così dice la norma. Così dice la norma. Poi magari naturalmente troverò il poliziotto che sarete, non dico di manica larga, ovviamente, perché in questo periodo non siete di manica larga, però se un po' di morbidezza su questo fronte probabilmente ci sarà. Così dice la norma, Spezia. quindi lei non può rispondermi, giustamente non può rispondermi. Mi multa, se mi becca così mi multa. Da quanto? Sono 533 euro, sì, perché se sull'auto sono tanti, con lo sconto del 30% se si paga entro 5 giorni. Castellone, siamo pieni di domande di padri separati, quelli che hanno per esempio i figli già maggiorenni, possono andare a prenderli in un altro comune, possono, non possono, no? Già maggiorenni, per quanto riguarda i minorenni non è cambiato nulla. In Lombardia, se si ricorda Spezia, siamo stati in zona rossa per tanto tempo, è sempre stato consentito ai genitori separati andare a prendere i minorenni. Minori. Sui maggiorenni lo spostamento è consentito se all'interno della regione, se in macchina, poi ci siamo in due, quindi vengono a casa a festeggiare col papà o con la mamma separata, sempre se non sono superiori a due, è consentito, rientra all'interno di questa normativa. Ok, quello si può fare, in sostanza basta che si rimanga in due, cioè nel senso, per esempio, il padre o la madre deve andare a prendere da solo il ragazzo, perché sennò poi sono più di due, no? Cioè non può andare col compagno o la compagna, perché sennò poi sono più di due all'interno della stessa... No, in realtà se sto andando all'interno... Sì, c'è il problema che non essendo conviventi Il problema delle mascherine, perché quello, anche quello è sempre rimasto valido negli spostamenti all'interno dell'auto: se non si è conviventi è obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e la distanza, quindi il massimo dipende dalle macchine, dall'emissione delle auto, si può stare in due, nella smart sicuramente no, però c'è sempre il con la disciplina. Grande domanda, Castellone, rapidamente la domanda è un ascoltatore: posso andare, se vado a piedi cambia qualcosa? No, non cambia niente. Se vado a piedi, se siamo nel periodo delle zone rosse, posso circolare all'interno posso fare attività motoria in prossimità dell'abitazione, posso andare a messa, devo rispettare esclusivamente anche gli orari del coprifuoco. Posso andare ad acquistare le medicinali, sì. Posso andare nelle attività che in quel momento sono anche aperte. Questo è rimasto qua. Allora, è la zona rossa. Sì, è la zona rossa, così è. E grazie Alfonso Castellone per essere stato con noi. Non possiamo rispondere a tutte le vostre domande, e però ci sono le frequently asked question sul sito del governo, se volete. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo il GR con la rassegna stampa.